This is La Manaya Production. Esto que parla que es G. Lo sai che c'è, José, dimmi che c'è. C'è che in questo beat tornano i defunte. Morto che parla la legione, il plotone. Il nome dittatore che fa fuori una nazione. KSG manda il loop, stai su. Sta roba è così morta che sta giù più delle roots. Ma questo non è roots, lo sai, non siamo i roots. Noi siamo istigatori, 2 novembre coming soon. Sai che ballo con il reg, mi sballo con la tech. Ma cazzo qua nessuno mi fa muovere col rap. Quindi dico, frate ti ho capito. Prendo B più spinto ed ogni culo è già partito. È partito, sì da un'altra parte. Perché lo sai nel rap, o c'è il cash o non sei grande. Ma la gente so che sa che è in pura verità. Il rap anche in chiesa batte la sua trinità. Levo ordigni dalla sacca, meglio anestetizzi il tuo apparato tipo polvere bianca. Tipo bamba che ti fa ballare pure il samba. L'abbiamo capito fra te, sei troppo in gamba. Ti parliamo di penuria, di pecunia, di quel minimo buonsenso di chi pecca di lussuria. Tu studia, perché l'unica è rompere il culo con la tua coscienza e fare roba veramente dura. Gianni che tu lo sai che se ci butti fuori merda come questa MGP represent. Non è questione di autocelebrazione, ma questione di danneggio cerebrale, autodevastazione. Perché lo dico dal principio, altro che fare feste taglio teste pure con elmo di scippio. Lo vuoi morbido? Allora sei l'ascoltatore solito, ti corico perché son troppo orrido. Morto che parla, il dramma senza trama, ti spacca ogni sample se vuoi pure la samba. Sulla testa c'è la cappa, in mente la sua rappa, la gente scappa, fuori un'altra. Morto che parla, il dramma senza trama, ti spacca ogni sample se vuoi pure la samba. Sulla testa c'è la cappa, in mente la sua rappa, la gente scappa, fuori un'altra. Oh, fuori un'altra, bomba troppo umana. La gente qua si scanna, this is la mannaia. Lascia il segno tipo Xanax, tazza boia, tazza mara, sassari, quanto è strana. Dimmi tu, la troia di chi sei, una cazzo di plemento, platamona, Norbay. Chi non è figlio di puttana, lo sai, non ingrana. La fame va a finire a fare pompa senza panna. Perché sì, sai, possiamo dirlo, a noi il micro in mano, a te un fottuto dildo. Si consola, la tua donna in voga, la monto sopra Vegas ma il suo video non funziona. Qui nessuno sei ciclona, pompieri il ciclone, in ogni rima schifa il babbione. Morto CH e parla con i rap, butta merda su di me, tanto resto io messier. Moltiplicare e devastare con il mio arsenale, il mio stile personale, dare fuoco al tuo locale. Senza rimorsi non mi fare i tuoi discorsi, don't give a fuck, né di te né dei tuoi amici stronzi. Noi fatti e sbronzi che sappiamo come opporci e suscitare l'astio di sta manica di frocci. Consumo bocce e schiaccio sassi tipo oggi, tu consumi bocce, ma schiacci sassi o schiacci noci. Te lo do pure al contrario, da tutti i punti parte l'attacco che collaudiamo. Staccaci la spina tanto qua non ci occultiamo, e treme il tuo ripiano fino a che non concludiamo. Gli spari, i chiodi bucano le mani, se mi connetto col fratello di Mister Nobody. Sicari, sono tempi disumani, 4-7 bestia nera fino ai nostri funerali. Morto che parla.